Effetto Mondo. Yes, there was silence. Yes, there was no people here. Yes, I walked through the streets of Dublin and no one was near. Eccoci qua, Giulia Crivelli. Ciao Giulia, oggi abbiamo iniziato così. Sì, una cosa, guarda, l'ho ascoltata ieri sera e ancora stamattina, è una canzone bellissima composta praticamente da una parte all'altra dell'oceano da Bono Vox, prendendo spunto da quello che succedeva in Italia, le persone che andavano al balcone e cantavano. La trovate, la si trova sui canali YouTube di Bono, ma anche di Will.i.am, che è uno dei membri dei Black Eyed Peas, con Jennifer Hudson, ed è una canzone dedicata appunto si chiama Sing for Love, canta per amare, ed è un po' un inno appunto a usare, come hanno fatto gli italiani ma poi anche gli spagnoli, a usare la musica, anche la musica e il canto, anche se non si è dei professionisti, per, certo, insomma, per tenerci sul morale, per sentirci in contatto comunque gli uni con gli altri attraverso questa forma d'arte fantastica che è la canzone e la musica. E così mi sembrava di iniziare per una volta in un modo un po' diverso. Anche perché noi avevamo iniziato col canto alle finestre, ti ricordi, forse due settimane, certo, fa, ancora sì, due, sì. Poi ci siamo un po', come dire, incupiti, forse ci siamo un po' bloccati. L'entusiasmo del tutto andrà bene ha lasciato il posto a questa attesa di qualcosa che succeda. E invece Giulia, sì, in realtà poi, sì, come ti sentivo anche ricordare, fanno paura a questo punto i dati dall'America. Donald Trump ormai, sì, ha assunto toni molto, appunto, non nasconde più che arrivano due settimane molto dolorose. Sia Washington Post che New York Times che tutti gli altri quotidiani principali citano le parole di Mike Pence, che è il vicepresidente ma è anche il capo della task force, che ieri appunto ha avvertito la traiettoria dell'epidemia negli Stati Uniti seguirà quella dell'Italia. Siccome negli Stati Uniti non si è al picco e i numeri sono già incredibili, appunto, preparare un po' tutti a questa, la crescita di questi numeri. C'è poi una polemica fortissima, e qui soprattutto sui giornali che già, tipo Washington Post e New York Times, non sono mai teneri con l'amministrazione Trump, perché, non so se lo ricordate, una settimana fa circa Donald Trump aveva detto che aveva stretto un accordo con gli amministratori delegati di Walmart e di altre grandi catene di empori americani per far fare i tamponi in una sorta di drive-thru, cioè si passava sì con la macchina e veniva fatto il tampone. In realtà sulle centinaia di migliaia di tamponi promessi ne sono state fatte poche migliaia. C'è un problema, tra l'altro sentivo proprio prima, anche l'abbiamo anche noi qui, di ufficializzare, di accreditare i laboratori che devono esaminare questi tamponi. È tutto molto farraginoso, non si riesce a coordinare questa azione, e quindi anche negli Stati Uniti questo strumento di prevenzione, che ormai tutti ci confermano poteva o potrebbe o avrebbe potuto essere un'arma molto efficace, cioè i tamponi, in realtà anche lì non si riesce a farli. Sì, mentre parli io continuo ad osservare il grafico che mostra le curve allineate al centesimo caso, e la curva degli Stati Uniti è la più inclinata verticalmente tra tutti gli altri paesi, ed è veramente impressionante. Chiaramente c'è anche una questione di numero, di massa, no? Gli Stati Uniti, certo, però voglio dire, è proprio una crescita esponenziale che è molto inquietante. Tra l'altro un'altra notizia che ho trovato su un quotidiano locale è che si avvicina Pasqua, poi come sappiamo è anche la stagione, quest'anno non coincidono, ma è anche la stagione del Passover per chi è di fede ebraica, quindi anzi sta anche per iniziare il Ramadan, quindi si incrocia tutto, e molte comunità rurali statunitensi sono completamente fuori controllo, perché si continuano a tenere delle messe. Sapete che ci sono tutte queste chiese strane negli Stati Uniti, strane nel senso che non appartengono alla grande famiglia della Chiesa Cattolica o comunque fanno capo ai principali rabbini degli Stati Uniti, e quindi anche lì i contagi si moltiplicano. Tra l'altro, e se vuoi sentiamo quest'altro audio, sì, per vedere come appunto tutti ormai sono toccati, Andrew Cuomo, il governatore dello stato di New York, ieri ha spiegato che anche suo fratello, che si chiama Chris Cuomo ed è un giornalista di punta della CNN, è risultato positivo al coronavirus ed è stato molto, sapete che io sono una fan sua ormai sfegatata, ma ha spiegato proprio, certo siamo tutti qui che pendiamo dalle labbra degli scienziati, il problema è che nessuno ci sa dare una parola definitiva e quindi sono preoccupato, e sentiamo le sue parole. Spend my whole life with him and it is frightening on a fundamental level. And it's frightening because there's nothing I can do and I'm out of control and there's nobody who can tell me and Dr. Zucker can't tell me anything. Dice è una cosa frightening, cioè che fa paura. Perché? Perché a differenza di come sono abituato io da politico che ha avuto molte responsabilità, in realtà è una cosa fuori controllo, i dottori non ci sanno dire non ci sanno dare una soluzione esatta, e quindi capisco, una volta di più capisco tutte le persone di questo stato, degli Stati Uniti, del mondo, che hanno un parente, un conoscente stretto che ha questa malattia, perché è vero che ogni giorno muoiono tantissime persone di tantissime altre malattie, però di questa veramente sappiamo troppo poco, ci sta facendo sentire, dice lui, on a fundamental level, cioè in profondità ci fa sentire profondamente impotenti. E senti, venendo invece all'Europa, che notizie hai sui giornali di oggi? Sai, anche qui il problema è di nuovo quello dei tamponi. Nel Regno Unito stanno scoppiando due questioni. La prima è che Boris Johnson aveva promesso, prima quando era ancora non in quarantena e poi dalle sue dirette da Downing Street numero 11, perché lui è nella casa vicino alla residenza ufficiale del primo ministro, aveva promesso i tamponi prima di tutto per tutte le persone che lavorano nel sistema sanitario. Il numero varia un po', se si comprendono anche tutte le persone della sicurezza, delle pulizie, si arriva a circa 400.000 persone, sono stati fatti finora 2.500 tamponi e questa è la notizia di tutti i giornali, dal Daily Telegraph che è molto, comunque sostiene con molta forza il governo Johnson fin dall'inizio, al Guardian che invece non lo sostiene. E c'è un altro problema, e qui anche qui come settimana scorsa sono cose che fa molto effetto leggere, che per fortuna noi in Italia per ora non abbiamo questo problema, è che c'è una direttiva ufficiale dell'NHS mandata agli ospedali dove si dice chiaramente: se avete pochi ventilatori date la precedenza alle persone giovani, date la precedenza alle persone che non hanno altri disturbi, perché chi probabilmente anche attaccato a un ventilatore non ce la può fare, va sacrificato. Questo detto appunto in parole purtroppo che corrispondono alla verità dei fatti. Senti, abbiamo ancora un minuto, hai qualcos'altro su Francia, Germania? Sì. Trovo sì molto interessante la riflessione che si sta facendo in Francia e che peraltro viene fatta anche in Spagna e tantissimo negli Stati Uniti a livello di college, che è un po' diverso da università, cioè comunque è un discorso molto lungo, però la riflessione riguarda l'insegnamento telematico. È una delle cose su cui molti paesi sono impreparati, anche in Italia molte scuole non lo prevedevano, hanno dovuto attrezzarsi, ma c'è un problema doppio: gli insegnanti, che comunque la didattica via internet, scrive Liberation e anche altri quotidiani francesi, è diversa da quella persona, da persona a persona. C'è uno studio che dimostra che le persone che vengono, i bambini che vengono da famiglie disagiate, imparano pochissimo, molto meno se vengono con un sistema di teleinsegnamento rispetto al rapporto con l'insegnante. C'è un problema dei genitori che magari riescono a fare, anche loro devono imparare a fare i compiti in questo modo nuovo, e c'è naturalmente anche il problema di chi o non ha il computer adatto o non ha una rete che funziona, e quindi insomma è vero, sì certo è una soluzione di fortuna, però anche su questo forse dicono in molti, anche negli Stati Uniti, tra le quali la speaker Nancy Pelosi ripresa dal Washington Post, bisognerà trarre questa lezione. Grazie Giulia Crivelli, ci risentiamo domani per l'ultima puntata della settimana. È tutto per oggi, effetto giorno con Andrea Roccabella in regia, Elisabetta Fusconi in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, ad Alessio Maurizi l'augurio di una buona giornata, ci risentiamo tra poco per i titoli delle 14.